Europa 24. Buongiorno da Maria Piera Ceci. In primo piano il consiglio direttivo della BCE riunito a Malta, BCE che ha lasciato invariati come previsto i tassi di interesse dell'Eurozona. Ci colleghiamo in diretta con Malta e con il collega del Sole 24 Ore, Alessandro Merli. Alessandro. Sì, buongiorno. Allora, raccontaci cosa è avvenuto, fra poco la conferenza stampa abituale di Draghi, giusto? Sì, il Consiglio si è già concluso, come avete detto è stato comunicato che i tassi restano invariati, cosa che del resto era attesa. Come sempre siamo appesi ad ogni parola che pronuncerà l'oracolo Draghi e vedremo che cosa dirà. I mercati si aspettano che dia un taglio diciamo favorevole a un prossimo stimolo della Banca Centrale Europea, visto che la ripresa continua a essere incerta e soprattutto l'inflazione non dà alcun segno di muoversi verso il famoso 2% che è l'obiettivo della BCE al momento, anzi sta in territorio negativo a meno 0,1%. Quindi Draghi come sempre dovrà camminare su quel filo difficile di non allarmare troppo sullo stato dell'economia europea, ma al tempo stesso di spiegare perché c'è bisogno di un ulteriore stimolo per avvicinarsi all'obiettivo di inflazione. Naturalmente molti altri fattori giocano, non ultimo l'andamento del cambio, sì, che è un po' apprezzato l'euro e si aspetta anche di sapere cosa farà la Federal Reserve, che in un certo senso potrebbe dare una mano alla BCE se a sua volta alzasse i tassi e quindi favorisse un rialzo del dollaro. Grazie ad Alessandro Merli da Malta. 17 paesi del Consiglio d'Europa, fra cui l'Italia, hanno firmato a Riga un accordo destinato a contrastare combattenti terroristi stranieri che si recano in aree di conflitto come Siria ed Iraq. Aggiunta alla lista attuale dei reati penali un certo numero di atti, fra cui la partecipazione internazionale ad un gruppo terroristico, l'addestramento al terrorismo, il finanziamento, l'organizzazione e la realizzazione di viaggi all'estero a scopi terroristici. Per l'Italia, nuova stangata dall'Unione Europea sulle quote latte per il periodo 2014-2015. L'ultimo anno di applicazione delle quote del latte lascia una pesante eredità all'Italia. Dovrà pagare oltre 30 milioni di euro di multa all'Unione Europea entro fine novembre. È arrivata oggi la conferma da Bruxelles. Durante il 2014-2015 gli allevatori italiani hanno infatti prodotto quasi 110.000 tonnellate di latte in più rispetto a quanto stabilito. Per il nostro paese si tratta del primo sforamento dopo 5 annualità senza sanzioni. Quest'anno però sono 11 i paesi europei che hanno prodotto oltre il dovuto, per un totale di 818 milioni di euro di multe. I fatti hanno dato quindi ragione alla Commissione europea, che lo scorso aprile aveva deciso di sospendere il regime delle quote del latte. In vigore dal 1984 la normativa imponeva ai produttori dell'Unione un limite che, se superato, avrebbe obbligato il paese a pagare una multa. Lo scorso settembre migliaia di allevatori erano scesi in piazza a Bruxelles per protestare contro l'eliminazione del limite, cosa che in pochi mesi aveva già causato un abbattimento dei prezzi. Federica Frola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.